Friuli nel mondo. 117esima trasmissione dedicata agli emigrati. 4 amici e 5 villotte. Il quartetto Stella Alpina di Cordenons vi dedica oggi, cari amici in ascolto, una fiorita di villotte, fedeli espressioni della grazia, della serenità e della poesia di nostra gente. Apre questa breve trasmissione il religioso canto di Stellutis Alpinis, di Arturo Zardini. Ma questo canto ci riporta ad un altro, nato anonimo dal cuore del popolo, che invoca la bella stella perché cessi la tragedia della guerra. Que el mio bello da Gotis di Rosade di Cesare Augusto Seghizzi ascoltate questi tre stupendi componimenti. Segue questo appassionato canto popolare su parole di Renato Appi, arrangiato da Sergio Jarov e intitolato Revoque Lontan. Champano. Chiudiamo la trasmissione con la canzone dal titolo La Soreghina di Ala Darianes, direttore del liceo musicale di Udine, quale cordiale omaggio ai nostri fratelli ladini delle vallate dolomitiche. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Ha cantato il quartetto di corde nonce composto da Adriano Turrin, Donato Marson, Ettore Travanut e Sergio Mion.